Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 33. La sera della notte. L'alba spolverava la sommità della collina con tiepidi e rosei nastri luminosi. Due tuniche bianche correvano attorno a un ampio bancone da laboratorio dove, chino su una manciata di componenti elettronici, Diossido stava assemblando alcuni pezzi tra loro. «È ora? Davvero? Dici che fra una settimana va bene? Ci pensiamo noi? Possiamo chiamarlo noi?» Ogni tentativo di seguirle con lo sguardo o di fermarle per discutere con calma era vano. Diossido continuò a lavorare sull'apparecchio elettronico rispondendo pacato. «Praticamente è tutto pronto, ma voglio collaudare ogni cosa con calma prima, per evitare sorprese poi, specialmente la rete per l'universo visione. Sarà uno spettacolo indimenticabile. Se non fosse stato per te, qui saremmo ancora nel Medioevo. Acqua di cane avrebbe già tagliato la corda. Non sarei scappato. Avrei solo infilato due dita nella corrente per farla finita. Ma le ragazze hanno ragione. Senza di te tutto sarebbe stato più complicato. Abbiamo lavorato tutti per la gloria del senza nome. Questo posto è speciale per lui e noi lo faremo diventare speciale per tutto il mondo. Sì, sua regina, per la sua gloria eterna. Abbiamo studiato ogni particolare. La cerimonia inizierà all'aperto, lì, in fondo al prato, con il mare alle spalle. Io e Anna abbiamo organizzato un concerto con tutti i suoi gruppi preferiti. Siamo riusciti a far incontrare gente che non suonava insieme da anni. Sarà una notte di plenilunio. Quando la luna sarà alta, illumineremo la cattedrale del mare con i laser. Acqua di cane ha preparato uno show visivo decisamente spettacolare. Ho preso l'impianto luci dei Pink Floyd, compreso il vecchio maiale. Pensavo di gonfiarlo e lasciarlo sul prato per farci giocare i bambini. Alla fine del concerto lo accompagneremo fino alla cattedrale per il discorso. L'idea del sentiero luminoso è stata di Anna. Sì, ma senza i consigli di Anna avrei fatto un casino. Diossido, quante telecamere abbiamo? Vorrei riprendere la cerimonia da tutte le angolazioni possibili. Oltre alla webcam mobile e alle fisse in alta definizione, abbiamo anche una decina di videodroni. Ti farò parlare con chi li manovra. Allora, ragazze, lo chiamate voi? Lo chiamo io. Anna, io gli parlo della cerimonia e poi te lo passo. Tu gli dirai come, dove e quando, ti va? Diossido, qua il telefono. E scusateci un attimo, dobbiamo raccoglierci un momento prima di chiamarlo. Fate con comodo. Io sarò qui in laboratorio. Ne avrò per un po'. Vi raggiungo dopo. Le stanze e i corridoi della Santa Sede avevano ripreso ad essere percorsi da ecclesiastici indaffarati a riordinare tutte le cose che il senza nome aveva spostato. Sebbene nessuno avesse espresso ad alta voce la sua opinione, erano rimasti tutti sbigottiti dal caos che la permanenza del Dio aveva provocato. Udendo il brontolio catarroso di un elicottero avvicinarsi, i religiosi si guardarono in volto e si affrettarono lesti a riordinare le divine stanze. Mirko e Drago fecero il loro ingresso tra due ali di persone prostrate a terra ai lati del corridoio. Drago vide tra gli altri il segretario e lo richiamò a sé con il dito indice. «Ciao, caro, appropinquati. Dimmi, dimmi, ci sono novità?» «Mio signore!» Il segretario avrebbe voluto sparire dentro se stesso pur di non affrontare quell'argomento, ma il senza nome aveva formulato una richiesta, impossibile disobbedire. «Mio signore, stiamo ricevendo sempre più numerose suppliche da parte di chi ha perso i suoi cari. Costoro sperano in una sua intercessione per riportare indietro le persone amate. Certuni si spingono fino a lasciarsi morire aspettando un suo intervento.» Drago sospirò. «Lo trovo normale. È umano provare dolore, per la perdita di un proprio affetto. Mirko gli picchiettò sulla spalla con un dito. «Sbaglio o è il tuo cellulo che vibra?» Drago si tastò la tasca. In effetti vibrava. Bene, non gli piaceva quella storia delle suppliche, aveva bisogno di riordinare le idee. Prese il telefono e guardando il display gli sfuggì una smorfia. «Cazzo, è Camillo!» Fece per spegnere il telefono, ma Riviera lo interruppe. «No, aspetta, dallo a me!» «Diossido, ragazzo, come ti butta!» «Oh, ma chi?» «Ah, Anna, Anna, che bello sentirti, come stai?» Gettò un'occhiata di rammarico a Drago. «Sì, sono io, Anna. Non c'è bisogno che fai così. Ti prego, parlami normalmente. Sono il tuo vecchio amico.» «Sì, aspetta un attimo. Dai, respira. Sei pronta? Va bene? Dai, dimmi.» «Sì, è qui, aspetta che glielo dico. Dice che hanno una bellissima notizia da darti. Vorrebbe parlare con...» Guardò Drago con aria interrogativa. Ozelot tese la mano verso il cellulare. «Sì, ok, dammi qui. Anna, ciao.» «Sì, sono proprio io.» «Stai tranquilla, parla con calma, ti ascolto.» Si allontanò verso la finestra che dava sui colori dei giardini, ascoltando in silenzio l'amica e annusando i profumi portati nell'aria dal calore di Roma. «Ho capito. Sì, certo, sai, arriva proprio al momento giusto. In realtà ho un annuncio da dare al mondo e mi sembra il posto perfetto. È bello risentirti ridere, Anna.» Il sorriso gli rischiarò il volto e guardò il cielo. Le rondini sfrecciavano come neanche un dio avrebbe mai saputo insegnargli a fare. «C'è anche lei? Va bene, passamela pure. Ciao, Anna.» Gettò un sorrisetto divertito in direzione di Mirko. «Ciao, Anna. Sì, sono io, ma non fare così anche tu, dai, ti prego. Fai un bel respiro e dimmi con calma.» «Sì. Fra una settimana va bene. Non devo salvare il mondo ultimamente, no.» «No, Anna, scherzo, scherzavo. Stai tranquilla, va tutto bene. Non ci sono asteroidi impazziti, no.» «Sarò con voi, certo, in carne e ossa. Anna, un'ultima cosa. Non chiedetemi di riportare indietro nessuno. Non lo so fare. Avverti gli altri.» «Allora a domenica, va bene, Anna?» «Aspetta, aspetta, volevo domandarti. Ma... tu sei felice?» «No, non ricominciare. Ah, sono lacrime di felicità? Ah, ok, allora continua pure. A presto, Anna.» «Chi? È con te?» «Passamelo. Dimmi, non puoi aspettare? Se proprio vuoi, siamo qui nell'ombelico del mondo.» Drago spense il cellulare e lo lanciò con noncuranza sul divano. Poi disse... «Una buona e una cattiva notizia.» «Vai con la cattiva.» «Diossido dice che mi deve parlare», sospirò il dio rassegnato. «Avrà qualche pensiero per la testa», disse Mirko ridacchiando. «E la buona? Hanno inventato una nuova preghiera per il senza nome?» «Se per questo ne hanno inventate decine.» «No, hanno finito di costruire la loro chiesetta, la mistica cattedrale della Terra Santa Immacolata sul sacro mare del Senza Nome, così mi sembra che abbia detto.» «E io sarò la star della consacrazione, of course.» «È inutile che ridi, non vorrei essere al tuo posto.» «Infatti non ci sei. Invece questa per me è la buona notizia, pura sincronicità. Devo fare i conti col passato. Un bel discorsetto di addio, le benedizioni e poi ciao, statemi bene. Ho una settimana per scrivere l'ultimo testamento.» «Fra una settimana? Ad Halloween? Non male. Chiamiamo i Maiden per la musica?» «Halloween? Pazzesco, vedi? Sincronicità. Tutto va come dovrebbe andare. Allora, caro, dicevi? Ah, sì, aspettano un mio intervento. Bene, che aspettino e sperino pure. Che altro c'è?» «Mio signore, abbiamo anche avuto notizia che si stanno formando circoli di persone che intendono proclamare uno scisma, una biura, gente che intende ripudiare la morte. Dalle nostre informazioni hanno intenzione di conferire con vostra grazia divina. La richiesta è di abolire la morte. L'argomentazione che essi usano è che se non esiste paradiso o inferno, allora che senso ha morire? Ripudiare la morte? Uno scisma interessante, biblico direi. Cosa si fa in questi casi? Segretario, che dici? Facciamo qualche bel rogo così, tanto per rinverdire le antiche tradizioni? O magari un bel diluvio universale? Drago raccolse un soprammobile dalla mensola. Raffigurava un uomo alato con un braccio proteso verso il cielo. Lucifero, che con rimpianto precipita agli inferi, o Icaro, proteso speranzoso verso il sole. Non riusciva a distinguerlo. Ragazzi, sono stanco, vado a riposarmi. Avrò bisogno di energie. Socio, ti ricordi delle mie amiche? Nel mio cellulare c'è la foto, non puoi sbagliare. Il giorno seguente Drago socchiuse gli occhi riparandoli dal sole di mezzogiorno. Aveva dimenticato ancora la finestra aperta? Si tirò le lenzuola sul viso per difendersi dai pugnali di luce che gli tagliavano le palpebre. L'aria portava nella stanza l'aroma di Roma, sapori in precedenza soffocati da decenni di inquinamento, pini, tracce di rosmarino, ventate, dolciastre di ciclamini. Si assaporava persino una traccia di salsedine marina. Le notti lavavano via i vecchi sentori di catrame e di piombo. Ogni nuovo giorno portava con sé atmosfere odorose di tempi arcaici. Giulio Cesare aveva senz'altro respirato quegli aromi. «Non vedo l'ora di mollare tutto, il tempo di prendermi un caffè, e poi raggiungo...» Con uno strattone lanciò via il lenzuolo e si sedette sul letto. Poi lanciò un urlo. «Oh, cazzo!» Gli occhi di Diossido, seduto accanto alla finestra, lo stavano fissando. «Ho seguito la scia che hai lasciato, quella iniziata tanto tempo fa. Ricordi? Marrone era bello!» «Che diavolo stai dicendo? Sei impazzito? A momenti mi lasciavi secco!» Si alzò di scatto sovrastando la figura seduta. «Che cazzo ti ha preso? Cos'è questa apparizione da fantasma del palcoscenico?» Diossido raccolse qualcosa a fianco della sedia. Lo sollevò mostrandolo e rigirandolo nella mano. «Sarebbero stati i... numero? Sicuramente non i primi, vero? E neanche i secondi. Dimmi, dove vuoi arrivare? Si vince una bambolina?» Drago osservava il metronomo senza riuscire a dare un senso logico alla presenza di quell'oggetto. Poi ricordò e rise. «I cantori di Norimberga! Ti sono piaciuti? Dovevo rieducarli, per il bene di tutti.» «Quanti ne hai rieducati? E il secchione? Aveva bisogno anche lui di essere rieducato?» Il sorriso del meticoloso evaporò come una goccia d'acqua su un tizzone ardente. Si sedette con un tonfo sul letto sfatto. «Non era mia intenzione. Non...» Si prese la testa tra le mani. «Non sai quanto ci sono stato male.» «Già, dimenticavo che alla fine sei sempre tu la vittima.» «Non voleva darmi l'algoritmo dell'effetto God. Avevo bisogno di ricalcolare alcune frequenze, ma non avevo la formula completa, capisci? Mi serviva», disse Drago prendendo vestiti puliti dall'armadio papale, che ora avrebbe fatto la gioia di un costumista di Hollywood. «Ti serviva?» «Litigammo, gli ho dato una spinta, senza ricordarmi di come era goffo, ero troppo incazzato. È barcollato all'indietro e poi è caduto con la schiena su uno scaffale pieno di roba, tutte le sue cazzate, sai. È franato tutto in un attimo. Ho fatto solo in tempo ad afferrare il foglio con l'algoritmo che teneva in mano.» Drago scelse una camicia da pirata rossa e un paio di pantaloni neri. Si vestì in fretta mentre continuava il suo discorso. «È stato come vedere il crollo delle torri gemelle al rallentatore. Sai cosa mi ha spaventato di più? Non il fatto che non volesse darmelo, ero pronto a discutere con lui anche per ore, ma il fatto che a un certo punto mi ha detto: "Anzi, sai cosa faccio? Lo uso io l'effetto God." E io sono rimasto pietrificato. Ci pensi al mondo che adora il secchione? Non sapevo se ridere o essere terrorizzato e sono solo riuscito a perdere il controllo. Mi dispiace per lui, ma è stata colpa sua. Perdere il controllo è una cosa che sai fare molto bene, a quanto ho visto. E a noi, dimmi, quando toccherà anche a me e a Mirko? Senti, non me ne frega un cazzo di quello che pensi di me. Ho fatto quello che dovevo e tu non puoi farci niente. Tu non sei niente. Lanciò a Diossido un'occhiata da tigre incazzata e uscì dalla stanza. Diossido rimase seduto a fissare la porta vuota. Si sentivano grida risuonare nei corridoi. «Un caffè! Datemi un caffè!» Poi uscì a sua volta, stringendo i pugni fino a lasciarsi dei segni a mezzaluna rossa nei palmi. «Ho aspettato anche troppo. Su una cosa avevi ragione, basta pensare». Appena l'elicottero lo riportò alla cattedrale, si precipitò in laboratorio senza parlare con nessuno. Occhi a palla, saldava condensatori al chip interno di un microfono senza fili di ultima generazione, quelli con telecamera integrata per riprendere il pubblico in prima fila durante i concerti. Solo che nello schema originale non erano previsti supercondensatori. Avvolse con cura l'impugnatura del microfono con del nastro isolante nero e sopra di questo srotolò del nastro per racchette da tennis antiscivolo. Collegò al microfono un cavo che inserì in una presa di corrente. L'intenzione indica la direzione. La collina ribolliva di teste, un oceano umano adiacente al mare di onde e schiuma che lambiva con molli flutti il fianco della collina. Il palco era illuminato da un riflettore di color indaco che scavava nell'oscurità della notte la figura di Drago al centro della scena. Il tono pallido della sua carnagione, messo in risalto dal fascio luminoso, lo rendeva simile a un basso rilievo in marmo parlante. Il tetragrammaton camminava da un lato all'altro del palcoscenico. Sorrideva la folla, alzava le mani rivolte verso i suoi figli che facevano altrettanto. Si riparava gli occhi dalla luce violacea portando le dita sulla fronte, poi scrutava la sterminata distesa davanti a lui come un nocchiero che cerca di intuire la costa fra il bagliore della luna e i riflessi del mare. Di quando in quando annuiva. La veduta dalla sommità della collina era cambiata. Non c'era più colore sui declivi, solo una enorme distesa bianca di tuniche chine. Dall'estremo orizzonte fino a lui, ovunque spingesse lo sguardo, una sola tonalità ricopriva ogni cosa. Si chiese se la scelta del bianco fosse stata imposta o spontanea. Entrambe le ipotesi erano inquietanti. Guardò il cielo. La costellazione delle sette stelle brillava gelida sopra quell'oceano color ghiaccio. Sfiorò con le dita il Devil, poi le ritrasse senza azionarlo. Inalò riempendo ogni alveolo dei polmoni di fresca aria della sera. Socchiuse gli occhi e iniziò il suo discorso. Avrei dovuto parlarvi all'interno della cattedrale, per santificarla, o che so io. Ma la verità è che è una notte così bella che sarebbe un peccato non stare qui fuori. E non ci sono luoghi santi. Anche alle colline lontane il senza nome faceva arrivare la sua voce e l'immagine, riversata da ogni gigaschermo verso ogni valle, soffiata da ogni audiodrone in ogni settore. L'umanità celebrava la bellezza. L'universo intero è sacro in ogni sua particella. L'universo è lì sopra per ricordarci una cosa molto semplice. Anche le stelle nascono e muoiono e l'universo con loro. Il rinnovamento non permette estasi. La vita richiede la morte. Il senza nome sembrava ringiovanito. Non portava più quella zavorra di cupezza che scolpiva paura in chi lo aveva conosciuto. Anche io morirò un giorno. Vorrei chiedere a tutti voi un favore. Fate che la mia permanenza con voi non sia stata inutile. Ho riflettuto a lungo chiedendomi se tutto quello che ho fatto è servito e soprattutto se servirà qualcosa quando non sarò più qui dopo questa ultima riunione. Fece per aggiungere qualcosa, ma poi si fermò indeciso. Mirko ascoltava perplesso. Quell'atteggiamento umano non era da lui, ma il meticoloso aveva dato la stura a quello che gli covava dentro da eoni. Il pubblico mormorava. Non era mai successo prima. «Non ci lasciare!» urlò una voce di donna lontana dal palco. «A volte ancora mi chiedo se ne valeva la pena». Drago si passò una mano sul mento come a trovare le parole, poi cambiò intonazione della voce, facendosi più duro, ma non meno umano. «Dovete ringraziare questo uomo», indicò il grande teleschermo dove apparve il volto barbuto di Basci. «Mi ha mostrato che la razza umana merita ancora una possibilità. Forse chi rinasce dall'inferno non sarà preda dei vecchi demoni, saprà riconoscerli e combatterli se dovessero tornare. Lo spero». Poi puntò un dito sul pubblico. «E voi? Ora anche voi vivete in un ambiente migliore. Avete rigenerato le città. Vi ricordate lo schifo che ci avevano lasciato? Come eravamo soffocati, strangolati dagli affari, dall'avidità, dallo squallore. Costruivano formicai programmati per umiliare, rimpicciolire, isolare l'individuo, annientare la speranza, renderci incapaci persino di pensare che potesse esistere un mondo diverso. Ho visto i filmati delle demolizioni e ricostruzioni, ho visto la gioia con cui avete tirato giù a martellate quello schifo. Ho ascoltato quando in mezzo alle macerie ognuno di voi immaginava cosa avrebbe visto al posto dello schifo. È stato così in tutto il mondo. Le paludi suburbane trasformate in giardini di fiori, le frontiere che con l'illusione di proteggervi vi rendevano sottomessi sono state abbattute. Il pianeta è veramente vostro ora. Io ho fatto la mia parte». Si voltò e a un suo cenno un bianco vestito gli portò un bicchiere d'acqua che beve a piccoli sorsi. «Mi chiedo che cosa sarete stati capaci di fare tra 100 anni. Mi chiedo anche se il germe dell'entropia e i bacilli dello squallore che ancora vi contaminano rovineranno tutto. Ma voglio avere fiducia. Ho fatto un buon lavoro. Devo lasciarvi liberi di camminare con le vostre forze per non essere tentato di... Certo, il libero arbitrio è storia ormai, ma non si può avere tutto dalla vita, giusto?» Il sorriso che fece ricordava piuttosto una asimmetrica contrazione delle labbra. «Diventerebbe tutto così monotono. In fondo c'è una sola cosa alla quale dobbiamo restare vicini. L'amore. È l'unica cosa che dobbiamo imparare e insegnare. Il mondo è vostro. Siate felici». Ebbe un visibile brivido, poi allargò le braccia verso il pubblico, fece una gran risata e urlò: «E ora basta con le cazzate! Si fa un po' di sana musica come ai vecchi tempi!» Saltò sul palco rialzato alle sue spalle dove erano gli strumenti musicali. Dai lati del palco uscirono Paolo e Billy. Mirko lo aspettava accanto alla batteria. Diossido stava pensando alle parole che aveva appena ascoltato. Non aveva previsto quel discorso, non dopo tutto quello a cui aveva assistito. Aveva appena capito che avrebbe dovuto credere alle sue orecchie quando, sgomento, realizzò quello che sarebbe successo. Si precipitò in direzione del palco vivendo la scena scomposta in fotogrammi che si susseguivano in rapida sequenza. Vide Drago che con un balzo saliva sul palco rialzato dei musicisti. Corse verso di lui, ma la folla gli sbarrava il passo, rallentandolo. Drago e Mirko si davano il 5. Voleva urlare, ma la voce gli si strozzava in gola per il panico. Paolo aveva imbracciato la chitarra. Con le mani scostava con violenza le persone davanti a sé. I musicisti avevano già preso posizione. Appena Billy decollò con il ritmo, era già troppo tardi per fermarli. Riuscì a cacciare un urlo che si confuse tra le grida di giubilo della folla di spettatori, ma non poté più avanzare verso il palco. troppi corpi, troppo tardi. Drago fece volare lo sguardo sopra l'oceano di fedeli, afferrò l'impugnatura del microfono, lo estrasse dall'asta e lo alzò in aria nel pugno chiuso. Era il momento di cantare. Quanto gli era mancato! Solo ora se ne rendeva conto. Cantare era stata l'unica cosa in grado di placarlo, svuotarlo e riempirlo, metterlo nel più profondo contatto con se stesso. Sorrise e si portò il microfono alle labbra. Un lampo troppo breve e uno schiocco assordante che lasciò una strana eco furono le sue ultime sensazioni terrene. Tutti lo videro spiccare un balzo in aria e ricadere sulle assi del palco come una marionetta rotta. Diossido era accasciato in ginocchio a terra, le mani davanti alla faccia, righe di sporco che gli colavano dal viso. Il pubblico era impietrito, la musica era cessata. Solo il lontano rumore delle onde del mare e i versi di alcuni uccelli notturni che commentavano sorpresi la scena. Mirko si precipitò verso il corpo riverso. Paolo e Billy si tenevano timorosi un passo più indietro. Le labbra di Drago erano gonfie e nere, un assurdo effetto da carnevale che contrastava col pallore e l'immobilità del corpo. Mirko si abbassò per cercare qualche segno di vita. Esili fili di fumi nerastri uscivano dalla bocca semiaperta. La cosa che lo demolì fu l'odore. Era quello dei Würstel alla griglia. Si girò, inondando con un fiotto di vomito l'amplificatore per chitarra Marshall, innocente spettatore della tragedia. Poi si alzò in piedi senza vedere la folla che si accalcava intorno a lui. Non vedeva gli elicotteri che si abbassavano pericolosamente sul prato fra le teste della gente. Non vedeva le facce sgomente e le lacrime che rotolavano. Aveva negli occhi solo i due rivoli scuri che uscivano dalle narici dell'amico esanime. Li vedeva strisciare in aria, ovunque rivolgesse lo sguardo. Si contorcevano come serpenti tra i piedi della gente. Macchiavano il cielo mischiandosi alle nuvole bianche. Si aggrovigliavano nelle sue pupille come scimmie aggrappate alle liane del nervo ottico. La folla si apriva al suo passaggio e si richiudeva in offensiva dietro di lui mentre si allontanava dall'olocausto. Acqua di cane scorse Diossido scosso dai tremiti a carponi sull'erba. Gli si avvicinò, si inginocchiò accanto a lui appoggiandogli una mano sulla spalla. Doveva sforzarsi per trattenere le lacrime. Aveva paura che non avrebbe più potuto smettere una volta iniziato. Continuava a dargli delicate pacche sulla schiena, ignaro del significato di ciò che Diossido andava biascicando fra lacrime e singhiozzi che parevano nitriti di cavallo. Intorno a loro la folla, mutolita, si trascinava verso il palco. Le Anne erano poco più lontano. Agitò un braccio per chiamarle, ma non ebbe successo. Così si incamminò verso di loro. Il meticoloso, sghembo manichino, giaceva spezzato sulle nudi assi di legno del palco. Qualcuno lo stava toccando con un dito. Qualcuno gli passava la mano tra i capelli. Qualcuno, cercando di mantenere la posizione e l'equilibrio, gli calpestava involontariamente i lembi della camicia o le mani. Ben presto la folla non ebbe neanche un centimetro quadrato libero sul palco ove poter camminare, e il palco, dal canto suo, non essendo stato fatto per sopportare tale peso, cedette alla pressione dei fedeli e crollò, seppellendo insieme Drago e discepoli. Nessuno dei presenti poteva credere ai propri occhi quando gli schermi giganti trasmisero in diretta la morte di Dio. La folla si diresse come un enorme bovino senza cervello verso l'epicentro della tragedia. Quando non si riusciva più ad avanzare, poiché la strada era satura di corpi, chi sopraggiungeva montava sul primo spazio libero davanti a sé, fosse esso un piede, una mano, una testa. Anche dalle pendici della collina centinaia di piedi e mani si aggrappavano alla terra per risalire e avvicinarsi al luogo ove giaceva il senza nome. Ciottoli e zolle di terra si staccavano rotolando su chi si arrampicava. Mani e piedi ferivano con innumerevoli graffi i fianchi della collina, innescando altre piccole frane che, ferita dopo ferita, ebbero il sopravvento sulla crosta friabile del colle. Alcuni, appena prima di arrivare in cima, caddero all'indietro su quelli che li seguivano. Le frane umane vennero così a sommarsi ai cedimenti del suolo. I videodroni che ronzavano sopra la scena trasmettevano il brulichio incontrollato di migliaia di persone che, affannandosi per raggiungere tutte lo stesso punto, camminavano sopra chiunque e qualunque cosa si interponesse fra essi e la loro meta. Uno strato umano dopo l'altro, la collina cresceva. Poi, con un rombo sordo, una fetta del fianco della collina si staccò scivolando verso il mare con il suo carico di insetti umani, travolgendo tutti quelli sul suo cammino. Terra travolse terra, uomo travolse uomo. Tutto infine sprofondò in mare con un ribollire di schiuma bianca, subito macchiata di rosso. La coltre di polvere che si sollevò rendeva difficoltosa la visione, anche se i telespettatori ne poterono apprezzare i cangianti riflessi, ora bianchi, ora vermigli, ora di pece, ritrasmessi in tre dimensioni sugli schermi ad alta definizione di ogni abitazione in tutto il globo. Per tutta la giornata fino all'imbrunire, nessun sopravvissuto riuscì ad andarsene da ciò che rimaneva della collina. Il giorno seguente, dapprima con elicotteri, poi con decine di autobus, superstiti e cadaveri furono rimossi dal luogo sacro. Quando dopo giorni tutto fu infine ripulito, quello che rimaneva della collina erano ossa scarnificate da qualche roditore del deserto.